Runtime Radio presenta Amici di Runtime, buonasera, bentornati e bentrovati. Questa sera informazione special perché, come al solito, un pochino rimaneggiata. Vedremo subito chi manca. Quindi permettetemi di fare subito l'appello, e iniziando dal compagno di merende storico di questo programma, Marco Gualdi. Ciao, ciao, saluto a tutti, scusate questo... mi fai strozzare così d'improvviso. Io stavo bevendo birra, anzi infatti è un po' buono. Buono, buono, stavo bevendo birra. Cioè tu mi dovevi dire che stavo a fare una cosa live, cioè... No, a tradimento. Che birra stai bevendo? E quella dell'altra volta, non facciamo pubblicità. Ne ho comprate due, quindi... Non si è sgasata? No, era chiusa. Va bene, e con noi c'è anche, come ogni lunedì, dall'assolata Puglia, anche se non lo so mai se è assolata veramente, Puccio Console. Assolata no, umida sì. Oggi abbiamo raggiunto un picco di 24 gradi. Ma fa caldino, c'è un po' di scirocco, vero? Sairocco, certo, come no. Ed infine permettetemi di salutare anche, mi auguro che riusciamo a collegarci perché l'altra volta siamo stati un po' sfortunati, il nostro Francesco Lobby Frontali. Francesco? Francesco? Che è? Francesco? Francesco? Senti un eco. No, ma tipo... Francesco, ma che sei a Milano? Oh! Che stai raga! Dove sei? Oh, cavolo, c'ha la diretta! Mi sono dimenticato, raga! Sono è iniziata già! Sì, sono le 9.02, sai che sono già un po'. Ma un attimo! Che qua c'è una bolgia infernale, ma, raga! Ma è ancora il, ma scusa, ma è ancora il rave di dell'altra settimana? Una settimana sì, di rave. Però no, perché è successa una cosa strana, perché praticamente io ero a rave. Aspetta, come stanno investi sempre. Oh, è stessa macchina dell'altra volta a rave. Ma vabbè. No, è semplicemente sto rave. Vabbè, volevo cercare di uscire, ma mi sbarrano sempre. Mi ritrovo sempre inglobato dentro a sto rave alla fine, solo che i rave sono lunghi, solo che sono belli lunghi, quindi cioè è una settimana che sto facendo sto rave, solo che mi sa che sì, solo che mi sono accorto che mano a mano, forse inconsapevolmente, sto rave si spostava, cioè ci spostavamo proprio fisicamente. Poi a un certo punto ho incominciato a vedere la gente intorno a me, cioè non mi sono reso conto dove eravamo finiti, cioè percepivo impercettibilmente che ci stavamo sempre spostando con dunz dunz dunz dunz. Poi a un certo punto vedevo gente che iniziava a cambiarsi, gente che veniva e si metteva la maglietta nera azzurra, trombette, striscioni a caso, gradualmente. Ma in pigiama, poi... perché stanno andando a dormire? No, se erano vestiti da interisti così a caso, io pensavo, boh, che non è un po' che ci fanno a Bologna vestiti da interisti? Infatti, e poi ho visto tutti quanti, campioni d'Italia, poi sono andato a vedere, ho visto c'era il Duomo di Milano, ho detto, ma il Duomo di Milano non c'è a Bologna, a meno che non l'hanno ricostruito di recente, un quartiere che non conosco, però... Cacchio, ero finito. Magari il Duomo di Bologna, no. Magari Sara l'ha venduto. San Petronio, no, si capisce. Pure quello è incompleto la facciata, però è diverso. C'è uno stile più sul romanico. E non è il gotico del. Non è il classico gotico. Il gotico bolognese. No. Quelli di San Francesco è più gotica Bologna. Mi piace Bologna, si capisce. Allora, no, che niente. Rima con... No, con Fregna. Era proprio a Milano e c'è tutta sta gente, tutta sta bolgia infernale di gente che era. Non me ne ero accorto che era vinto il campionato. No, ma chi ha vinto il campionato? Oh, chi? No, si dicono l'Inter qua. E giustamente la gente ha festeggiato, giustamente a Bologna, giustamente tutti a Calcaia. Che vuoi festeggiare? Fammi capire, cioè è diventato un rave, è diventato un festeggiamento di uno scudetto. Sì, e si è spostato anche nel frattempo, non me ne ero accorta. Intanto io scusa, non ho capito una cosa, tu sai che io di calcio ne capisco poco, no? Ma lo scudetto non lo vince la Juve? Quest'anno non hanno rinnovato i diritti alla vittoria della Juve, non lo so il perché, boh. Ah, vabbè, non pensiamoci più. Vabbè, comunque vedo che sei riuscito a trovare un angolino un po' più silenzioso per farci un po' di compagnia. Ma io approfitterei, io me ne andrei da lì a sto punto, cioè non sì, ma non mi ingloba, a un certo punto, cioè diventa tipo un loop. Io cerco guarda, di uscire, ecco, io avevo fatto tutta un'altra strada e mi sono ritrovato di nuovo a un mezzo. No, ma lì devi stare attento, perché secondo me ce la puoi fare, perché cioè hanno detto che praticamente ieri le forze dell'ordine non c'erano, quindi ognuno faceva come gli pare, quindi secondo me se insisti la strada la trovi. C'erano le forze del disordine, insomma il caos, esatto. Praticamente quindi secondo me ce la puoi fare stavolta, tu devi soltanto seguire che cosa posso seguire, sto vedendo l'odore della libertà, la stella polare. E vai a Bologna, così forse potresti andare a Bologna. Poi da lì a Reggio Emilia un attimo. Sì, ma come hai fatto a uscire? Cioè, ma che sei due zone gialle? Sì, tutto gialloso. Sì, tanto un rave. Ragazzi, ma la pandemia è finita, perché sennò mica ti pare che scendevano tutti a festeggiare così in mezzo strada, senza mascherine, 30-40 mila. Soprattutto nella regione meglio amministrata e meno colpita dal... È quella più vaccinata adesso, attenzione. Sì, anche quella più vaccinata, è vero. Se non hanno truffato i dati, come la Germania, come la Volkswagen. Non lo fanno mai. No, sei sicuro che stanno festeggiando la vittoria dell'Inter e non la fine della pandemia? Che, cioè, la fine della pandemia che coincide con la vittoria dell'Inter, doveva vincere l'Inter, era scritto, c'era una profezia, secondo me. Esatto, che interrompe la serie vincente della Juve. Una profezia maia. Sai come si dice? Ci sono due cose: le cose finiscono, iniziano ogni morte di Papa o ogni vittoria dell'Inter. Quindi c'è sta proprio questa cosa. Ci sta, può essere. Sì, ma difatti, Francesco, cioè devi essere contento. Hai assistito a un fenomeno rarissimo che si verifica tipo una volta ogni 10-12 anni. Esatto. E poi per 10-12 anni non vedrai più. Esatto, quindi tu sei stato lì detto altro che sangue di San Gennaro che si è sciolto. Tipo cometa di Halley proprio, stai. Esatto. Tra l'altro, visto che lo stesso Salvini, che sapete essere un iettatore professionista, si è complimentato con l'Inter, probabilmente così che per i prossimi 30 anni, capito? Cioè, amici interisti sono 24 anni. Sì, ma infatti l'errore suo, perché poi Salvini è stupido, perché ha un potere e non lo gestisce, non lo amministra con responsabilità. Lui è milanista e doveva complimentarsi un mesetto fa con l'Inter dicendo: complimenti ai cugini nerazzurri, che tanto ormai, è palese. Esatto. Invece no, gli è mancato questo guizzo, vedi, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, infatti, come diceva lo zio morto del Pomerania. Esatto, però questa è la dimostrazione empirica che Salvini non ci arriva, perché voglio dire, vorrei avere i suoi poteri. Infatti lui non è un supereroe, insomma, mi sembra proprio decisamente no, e ce l'ha detto, ce l'ha fatto capire anche Fedez, che è un supereroe. È un supereroe. Sì, esatto, ragazzi. Non so se, tra l'altro, allora, prima di introdurre questo argomento, fatemi salutare anche gli amici che ci stanno ascoltando in chat. C'è Pier G che ci salutava poco fa, ci diceva buonasera a tutti. Dovrebbe esserci anche Peppe Rizzard, anche se non ha scritto in chat. Poi suppongo, insomma, che ci siano sempre quel chilo e mezzo di pavi di ascoltatori che si vergognano di ammetterlo o che non hanno Telegram. Fanno bene a vergognarsi, comunque, e anche ad non avere Telegram. Beh, quello un po' di meno, però sì, sicuramente a vergognarsi fanno bene. Beh, comunque, ragazzi, insomma, il tema della serata, premesso che anche stasera sarebbe stato interessante guardare report invece di fare OGM, però poi lo recuperiamo sul replay, perché ci sono... Possiamo commentarlo in tempo reale. Potevamo quasi fare veramente una reaction. Una reaction, vabbè. Una erection. Una erection. Se guardiamo YouPorn facciamo una erection. Esatto. Però, insomma, avete visto, no, che mentre noi facevamo la nostra ormai abituale live del 1° maggio, ovviamente facendo anche concorrenza al famoso concertone, al concertone sono successe cose, perché è diventato... Scusate, devo prendere la linea, assolutamente, mi dispiace, ma devo prendere la linea un minuto, poi io me ne vado via subito, ve lo giuro, me ne vado via subito. Ma volevo dire che qui a Piazza della Libertà, Reggio Emilia, stanno facendo una manifestazione composta e civile, un gruppo di neofascisti che si chiama chiamano Lega Patriota, e giustamente questi sono bravi perché stanno lì, stanno facendo quella loro manifestazione senza dar fastidio a nessuno, perché anche loro vogliono festeggiare il primo maggio. Però ci sono dei cretini che chiaramente da un balcone lì su in alto stanno praticamente facendo suonare una canzone che è una provocazione, chiaramente. Bella ciao, stanno facendo che suonare, schifo, ma... che stronzo, sì. Cioè, a disturbare così una manifestazione, non si può fare. Guardi, io ecco, volevo solo si può dire merda. Meno male che Piazza della Libertà a Bologna non a Monterotondo, che tra l'altro è a due passi da Reggio Emilia. Reggio Emilia, non è, comunque, che non è quella di Monterotondo che ti sta a due passi da casa, perché poi dovevi uscire col Mattarello. Esatto. No, comunque Francesco è andata bene perché da Bologna potevi andare a finire a casa tua, però insomma non so se ti andava bene, insomma, a questo punto meglio Linda. Occhio, meglio così. Mi riconosci, Linda? Ah no, quello era un'altra Linda, ok, niente. vabbè. Ragazzi, no, dicevo, ma avete capito, insomma, che terremoto mediatico. Volevo dire a Pizzi che a Reggio Emilia purtroppo non esiste una Piazza della Libertà, quindi per dirvi che non è libero come città. Non c'è libertà. No. Perlomeno non in piazza. Ok, quindi era un'altra dei martiri, questa piazza. Quindi era un'altra piazza, però la notizia che Pizzi ha accennato è vera, nel senso che c'è stata veramente questa manifestazione di estrema destra e i giornalisti hanno commentato, di Digi3 Emilia Romagna, leggermente prezzolati mi viene da dire, hanno commentato questa appunto reazione che da un balcone ha propagato la musica di Bella Ciao come una provocazione. Ormai il mondo è alla rovescia. D'altra il primo parte maggio. Se Fedez sta diventando una sorta di nuova icona della sinistra, qualcosa non torna. Ma avrebbero potuto mettere anche Falcetta Nera, però. E lì sarebbe stata il dubbio, quel punto interrogativo, secondo me non ci arrivavano. Comunque era Bologna, non era Bologna, Reggio Emilia. E quindi potevi fare pure quello. Comunque era un Falcetta Nera, sarebbe stata, cioè, lì viene il dubbio, no? Capito? Il governo bipartisan, praticamente. Esatto, perché lì la Falcetta Nera sanciva il martelletto praticamente, nero, sì, esatto, là si rivoltano quindi nella tomba contemporaneamente sia Almirante che Berlinguer, praticamente. Che non sanno cosa sta succedendo, non si rendono conto, però vabbè. Perché sono morti, uno per fortuna così non vede che sta succedendo, e l'altro per fortuna è morto. Esatto. Va bene, poi scegliete voi quali, perché noi ovviamente siamo assolutamente in base alle vostre preferenze. Sì, noi siamo assolutamente super parte. No, ma io capisco che abbiano mantenuto questo contegno civile nonostante le preoccupazioni, ma come insegnano due noti filosofi della Magna Grecia che hanno, mi pare, una trasmissione televisiva su Mediaset, in realtà quando uno ti chiama negro, frocio, basta scoppiargli a ridere in faccia, così lo disarmi. Ma sarebbero, cioè, quei due sedicenti comici delle zone, quelle più due conferme sulla, diciamo, quelle due conferme della pessima opinione che ho dei foggiani, che ogni tanto vanno anche in televisione. Ricordiamo il detto: fuggi da Foggia, ma non per Foggia. Ma questo ti dimostra che quel detto contiene una massa un briciolo di verità nei detti c'è sempre. Sì, ma anche più di un briciolo. Una brasciola, visto che stiamo parlando di Puglia, una brasciola che è l'involtino di cava di carne di cavallo, sostanzialmente. Non necessariamente, però tendenzialmente. Cioè, non necessariamente di cavallo, però. Tendenzialmente. Anche di carne umana, quindi. All'occorrenza. Anche di carne umana, ovviamente. Mamma mia, quindi Simone, non di Foggiano. Simone ha fatto in chat una citazione che è quasi da Dragon Ball, perché ha fuso i due personaggi che citavo prima, è venuto fuori Berlmirante. Mamma mia. Che cosa, Madonna, sa che brutta fusion. Questo è come quando sbagliano e viene fuori il Gotenks grasso. Esatto. Con ipotara, perché non penso che si possano fondere altrimenti, però. Vabbè. Che volevo dirvi? No, vabbè, insomma, Pio Amedeo, che tra l'altro, vabbè, io, a me non fanno ridere, poi ritorniamo al discorso di Fedez, a me personalmente non voglio che tutti la pensino come me, però sinceramente a me devo, al di là di questa, di questo diritto invocato all'essere non politically correct, perché ha rotto il cazzo il concetto che loro hanno voluto evidenziare, fosse cosa che io, su cosa io sono assolutamente d'accordo, no, ma sono d'accordo anch'io, ma se questo diritto sei perso niente, lo rivendicano artisti di un certo livello, mi sta anche bene. Cioè, se me lo viene a dire, che ne so, un Elio, uno qualunque della famiglia Guzzanti tranne Paolo, oppure che ne so, insomma, artisti della satira, artisti della anche comicità. Paolo Guzzanti non è mai stato politica di corretto, lui era proprio di parte, per cui sì, sì, no, lui era proprio innamorato, lui era proprio zerbinato, sì, a diverso. Suo modo non era politica di corretto, però faceva un'ottima imitazione di Pertini, infatti ci cascò, sì. Renzo Arbore con tutte le scarpe. E comunque oggi leggevo un'intervista a Carlo Freccero, che uno, insomma, che di TV la sa lunghissima, e perché lo hanno intervistato proprio entrando nel merito intanto della questione di Fedez, della polemica con la Rai, e lui fino a lì, insomma, ha speso delle parole abbastanza condivisibili, ha bene o male ribadito che Fedez praticamente ha fatto salire a galla la parte peggiore della Rai, e fino a lì, ripeto, Freccero, diciamo, si è confermato per essere uno che di televisione, ma non solo di televisione, la sa lunga. Poi però sono uscito con questa affermazione definendo a Pio Amedeo come due grandi artisti liberi, e io sinceramente lì a un certo punto ho vacillato, ho detto vabbè, allora forse la mia opinione su Freccero non era proprio giusta, perché ripeto, anche là vabbè. No, ma sai che cos'è? È che io, cioè, facendomi violenza, sono riuscito a vedere quella parte a sprazzi. A me è venuto in mente. Ma la cacca, ovviamente. Sì, sì, sì, no, spruzzi. Esatto. Mi è venuto in mente John Cleese dei Monty Python, no? Che ogni tanto ancora, quando c'ha voglia, scrive qualcosa su Twitter e io religiosamente lo leggo. Una volta Cleese disse: cioè, guarda, che vi incazzate per la questione del politica di corda. Ok, va bene. Il problema è che la gente che si lamentava c'era pure prima. Il problema è che non ce ne fregava sostanzialmente niente del fatto che si lamentassero. Cioè, se volete fare quel tipo di comicità, fatela. Noi, come Monty Python, l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto Brian di Nazareth, che proprio la cosa più dolce di sale del mondo non era. Ovviamente c'è gente che se ne è lamentata, ma avevamo messo in conto che poteva accadere. Quando fai una cosa del genere devi essere pronto ad accettare le conseguenze che vengono da quella scelta, che sono sicuramente le persone che ti applaudiranno, ma anche chi romperà il cazzo. Se poi il fatto che ci sia gente che ti rompe il cazzo per te è un problema, vuol dire che molto probabilmente hai sbagliato mestiere. Ma sì, guarda, il discorso è, e mi rifaccio a un intervento che ha fatto oggi Francesco Lancia in radio. Francesco Lancia è un autore, è anche, diciamo, un personaggio che ruota attorno al mondo della radiofonia, collabora con il Trio Medusa e non soltanto. Ha fatto fondamentalmente un discorso molto semplice. Se siamo in un'epoca in cui è più facile dare risonanza anche a chi giustamente rivendica il diritto a non essere, come dire, trattato in maniera fuori luogo, che possa essere qualunque tipo di contesto sociale, di minoranza o quello che vogliate voi, queste persone hanno il diritto di dire quando si sentono offese da affermazioni anche di tipo cabarettistico di un sedicente artista. Il discorso è che il punto non deve essere che non si ha più il diritto di esprimersi in maniera politicamente scorretta. Il punto è, come diceva lui, assumersene le responsabilità. Cioè, tu sei libero oggi, come libero ieri, di dire quello che vuoi nel modo in cui vuoi, ma devi poi essere anche consapevole delle responsabilità e delle conseguenze che questo porta. Vuoi dare del ricchione a qualcuno, vuoi dare del terrone a qualcuno, vuoi dare del negro a qualcuno, fallo, ma poi te ne assumi le responsabilità. Non può essere una cosa buttata lì in superficialità che tu dai per scontato che non sortisca nessun effetto, che non faccia nessun danno. Se qualcuno si sente danneggiato da essersi sentito chiamare ricchione, terrone, negro, eccetera, ha il diritto poi di rivendicare questa sua... Ricordati che lo hanno deciso i ricchioni. E io devo... Ricchioni! coglioni. La follia della donna, il disagio mentale, gettarsi l'inchiostro con gli aghi. Questo è un po' un discorso. Nel frattempo al 9000 in chat ci dice: praticamente non ho visto nulla di quello di cui state parlando, ma in realtà nemmeno noi, e questo è il bello, che ci arrampichiamo un po'. Ma guarda, no, assolutamente fare. Non bisogna guardare ed essere consci di quello che dici, basta prendere delle notizie a caso e parlarne, facendo finta di conoscere la cosa. Soprattutto, cioè, magari Fedez lo puoi pure risparmiare, perché alla fine non mi passa neanche questa cosa fortemente memorabile, ma proprio te lo dico perché mi sono fatto violenza e me lo son visto quella cacchio di trasmissione. Felicissima sera, saltala, cioè, ma sì, fai finta che ti hanno detto tutto via Facebook, perché... Ma invece Virgilio, cioè, dice Boldi e De Sica a confronto a quelli fanno ridere, sono Toto e Peppino, mamma mia. No, Piergi in chat ci dice: Pio Amedeo sono comici come il programma TV nel film di Robocop, quello che diceva le comprerei io per un dollaro, non so se avete presente. Sì, abbiamo molto presente, però lì l'effetto era opposto, nel senso che lì c'era una polemica, lì c'era una satira, una critica ferocissima di Paul Fenofer in quella scena, cioè stava proprio criticando quella satira ridicola che non fa ridere, che era la commedia di merda che noi abbiamo, esatto, ancora oggi, tra l'altro. Esatto. Vabbè, ma ce l'hanno, credo ce l'abbiano ancora anche loro, No, ce l'hanno sicuramente anche gli americani, ora in forma meno frequente, però ce l'hanno sicuramente anche loro. Che poi, tra l'altro, visto che l'abbiamo citato, parentesi, è vero che Robocop è molto figlio del suo regista, però momento non tutti sanno che è parte della sceneggiatura del 2, parte della sceneggiatura dell'1 e buona parte della sceneggiatura del 3 sono opera di Frank Miller, quello del Ritorno del Cavaliere Oscuro, quello di Daredevil. Uno dei due autori della Dark Age dei supereroi, Franco Milleri, che tra l'altro si è sempre molto incazzato perché diceva che la sua sceneggiatura dei Robocop era molto più cruda, era molto più tetra, più violenta, invece diceva lui lo hanno edulcorato per venderlo a un pubblico di adolescenti. Francamente il 2 un po' tanto edulcorato non mi sembra, però l'uno magari sì. Dov'è l'edulcorazione, che è uno dei film più violenti della storia del cinema? Allora ragazzi, io il volume con il Robocop di Frank Miller, cioè lui che ha disegnato in versione comics le sue sceneggiature, ce l'ho, vi dico, non l'ho ancora letto, lo sono comprato in un momento di euforia paradossa, però sfogliandolo gli effetti mi sembra che ci fosse perlomeno molto più sangue. In realtà, il sangue, guarda, la serie TV, che quella fa cacare a spruzzo, però la serie TV è terribile, ragazzi. Sì, che c'ha le armi non letali. Vabbè, la serie TV degli anni 90 era fatta veramente per poter essere trasmessa in TV in quegli anni, e comunque quasi peggio del cartone animato, ragazzi. Mamma mia, il cartone animato, penso che l'abbiamo visto un 2, che è bellissimo, dove l'agente Alex Murphy è stato ferito in azione, non è stato brutalmente assassinato, esatto, è stato smembrato, non è stato crivellato di colpi. Comunque il fatto che Robocop sia stato poi in parte edulcorato a livello di effetti speciali, però non a livello di rappresentazione totale, era perché per evitare che gli dessero l'R di rated, perché sennò sarebbe stato vietato ai minori di 18 anni nelle sale, quindi hanno usato un po' di escamotage per ammorbidirlo un pochino, ma solo quello. Sì, tipo i numeri di vaffanculo che puoi dire prima di diventare un film R-rated. Sì, no, ma anche troppo sangue, cioè se al sangue gli cambi colore, sembra leggermente meno rosso, già è meno grave per il rating, esatto, per la censura. E vabbè, comunque, però insomma resta un capolavoro del suo genere Robocop, perché veramente c'è una satira all'America degli anni 80 che è ferocissima, un po' come poi dopo Starship Troopers. Lo sapete che ho capito il mese scorso una battuta sottilissima di Robocop, perché in inglese non ci ho pensato, ho capito che era una battuta, ma non me ne ero mai reso conto, e cioè la pubblicità sulla macchina, la SUX, perché poi 6.000, sì. Dicono SUX 3.000. 6.000. Sax, certo. Ma fa schifo, è bellissimo. Non ci avevo mai fatto caso. Infatti l'ho capito il mese scorso, ho detto cazzo, geni. Ma secondo me la pubblicità più bella è quella della crema solare, che è sufficiente spalmarne mezzo chilo in tutto il corpo e sarei protetto per ore. Ma in realtà successivo proprio curare cancro, certo. Come il vaccino russo, lo Sputnik può causare il Covid, può causare, sai, effetti collaterali, può causare il Covid. Non so se avete saputo che in pratica i brasiliani si sono interessati all'acquisto dello Sputnik, perché diciamo la situazione in Brasile non è delle migliori, cioè, non è più o meno a livello indiano da quello che no, si no, di meno, di meno. Infatti poi hanno guardato l'India e hanno detto vabbè, c'è chi sta peggio, possiamo andare a campare. È l'agenzia del farmaco brasiliana, di cui mi sfugge il nome, ma sarà penso in portoghese, ASS, che non, perché ricordiamo il Brasile potrebbe aver offerto ospitalità, ma vabbè, non stiamo a rimangare in passato, gran parte dei nazioni dei paesi sudamericani, esatto. Io sapevo l'Argentina, però vabbè, poi ne parliamo un'altra volta. Anche il Brasile, ragazzi, inutili dal Brasile, insomma, poi Sud America in generale, ok. Stavo dicendo, quindi l'agenzia del farmaco brasiliana ha chiesto ai russi, vabbè, gentilmente poteste fornircene dei campioni, così lo analizziamo, visto hanno che hanno mandato dei russi direttamente, hanno mandato della vodka. No, in realtà poi sono tiratelo fuori da questi russi, esatto. No, in realtà pare che l'agenzia russa abbia detto no, vabbè, possiamo offrirvi un tè, ma hanno declinato gentilmente. Parliamone davanti a un tè, è stata la frase, esatto, giusta. Ognuno a casa sua in Brasile. In pratica è stata fornita una partita di Sputnik 5 alla FEMA. No, Sputnik V. Marco ci tiene, tutte le volte ci corregge, c'ha ragione, però insomma. È come la storia che non è arma X ma arma 10 nei fumetti, va bene. Però lo scopri dopo questo. Decisamente. In pratica è stato fornito e le università brasiliane ci sono buttate sopra, hanno cominciato ad analizzarlo e hanno scoperto una cosa meravigliosa. Probabilmente il vaccino russo, sollecitato dal calore brasiliano, la saudade, non lo so, queste cose tipiche del Sud America, pare che il virus, l'adenovirus contenuto all'interno del vaccino, quindi il virus depotenziato, adenocromo. Allora, in pratica questo fantastico virus inerte non è tanto inerte perché si riproduce. È leggermente vivo, esatto. È leggermente vivo. Quindi diversamente inattivo. Sì, è tipo Walking Dead. La cosa bella è che il risultato attivo sia quello della prima somministrazione che quello della seconda, che ricordiamoci che nel caso dello Sputnik sono due vettori virali diversi. Quindi hanno fatto proprio bingo. Quindi in questo momento in Russia c'è gente che all'interno ospita delle colonie virali, probabilmente. Secondo me i superpoteri vengono così poi, eh? Dice che non ci serve. Sì, ragazzi, mi è caduta la DSL, devo far ripartire il flusso, un secondo. Come che ti sentiamo? Sono tornato. Basta che non lo incroci, insomma. Come ti è caduta la DSL? Mi è caduta si è disconnesso il modem. Lo fanno anche a me. C'è fasto anche lì. Mi dite se. Però il software di Spreaker sta continuando ad andare. Però non credo che sia caduto il flusso. Un attimino. Sempre colpa di Fasso, comunque, allora, a prescindere. Aspettate. Anche se forse su runtime stiamo continuando, però chi lo sa. Ok, mi dice Simone che siamo in linea. Perfetto, ragazzi, scusate, la mia linea ha vacillato probabilmente. Vabbè, sono cose che succedono, ma io voglio sapere questa storia del teschio rosso, del tizio che si è iniettato il super soldato. In pratica, che ha trovato dentro nelle ricette della nonna, tra l'altro. No, era un professore di storia, viene spiegato così, che trova la formula del serial super soldato in un appunto di Erskine, riesce a ricostruirlo, se lo inietta a lui e al suo studente migliore di storia, quindi diventano Capitan America e Bucky. Però assumono il nome di Steve Rogers e Bucky Barnes, aiutati dal governo degli Stati Uniti, per far credere che Capitan America in realtà non sia mai morto. Ovviamente gli autori di quei fumetti avevano bisogno anche di riprendere l'antagonista e quindi ripresero il teschio rosso. Il problema era che ovviamente i nazisti non c'erano più, quindi in qualche modo dovevano trovare l'ideologia che andasse a contrapporsi a quella americana, ovviamente scelsero i sovietici, quindi inserirono tutta questa storia meravigliosa del teschio rosso, che in realtà dopo la fine della guerra era riuscito a convincere i comunisti sovietici di essere sempre stato dalla loro parte. Poi hanno dovuto fare tutta una serie di retcon, spiegare che il professore universitario era pazzo, che il siero del super soldato era incompleto, che il teschio rosso non era il teschio rosso ma un'operazione di propaganda dei comunisti, solite cose che poi si ficcano nei fumetti Marvel. Fatto sta che poi alla fine questo professore pazzo è diventato tipo un neonazista e vaga ancora per l'universo Marvel come antagonista di Capitan America. Come tanti personaggi dell'universo Marvel, che sono talmente tanti che alle volte alcuni se li dimenticano, li fanno vagare in un limbo per 10-15 anni, poi si ricordano, ah, ma c'era quel personaggio. O fanno l'isola dei famosi Marvel. È vero, sai che ci sono pure. Ah, potrebbe essere un'idea, l'isola dei famosi Marvel. Sì, ci mettono dentro gente che non vedi da 15-20 anni. Qualche personaggio donna in bikini è svoltato. Vabbè, queste sono tutte. Tirano tantissimo, eh. Vabbè. Tirano bene. È veramente fantastico il mondo Marvel, te lo metti. No, ma quando hanno ritirato fuori Squirrel Girl, la ragazza scoiattolo, e gli hanno fatto un personaggio divertente, ne vogliamo parlare? Cioè, non so neanche di cosa tu stia parlando, però sembra un personaggio. Dovete leggere, fa pisciare dalle risate. Sembra un personaggio preso più dai film parodia. Adesso non mi vengono in mente i titoli del quelli film. Quelli della Troma. Ma anche quelli di tipo. Come si chiama quel film che è stato anche abbastanza famoso di. Parodistico di supereroi di un paio d'anni fa, che poi un paio di una decina di anni Avengers. Fa sì, quasi che poi ha fatto anche un seguito, qualsiasi dai. Film di Whedon prima. No, Mystery Man è ancora più vecchio, bellissimo, con Adam Sandler eccetera, che credono di avere i superpoteri ma non li hanno. No No, in realtà ce li hanno, sì, però sì. Sono strani, sono, sì, vabbè, sì, forse sì, l'uomo invisibile solo se non lo guardi, se non lo guardi e diventa invisibile. Oddio, vabbè, non è importante. Ma come siamo arrivati a parlare di Squirrel Girl? Non lo so, però sai che capita, sono i flussi più belli, sono delle cose più divertenti di OGM. Quando comincio a parlare di bombe atomiche. Ma quindi Fedez ha i superpoteri? Decisamente sì. Ha i super soldi, è una famosa, è un superpotere che funziona. No, è un superpotere che c'ha Bruce Wayne e Tony Stark. Sì, tutto, quindi funziona. È vero. Cioè, il resto, anche in Justice League, quando Flash gli chiede a Batman, ma tu che superpoteri hai? Sono ricco. Vabbè, c'è da dire che Fedez non è così ricco, anche se magari ci arriverà, però. Però con la moglie, può darsi che. Beh, messi insieme le Wayne Enterprises. Cioè, non è una multinazionale, però nel giro di una decina d'anni potrebbe indossare la mantella di Batman. Ma diciamo che fanno quel tipo di business, oppure se lo vogliamo chiamare così, perché secondo me tra un paio d'anni, secondo me soprattutto Chiara Ferragni tra un paio d'anni sarà ben dimenticata. Lui c'ha questa carriera Ferragni musicale. La Ferragni secondo me riuscirà a infilarsi, come già è successo, tipo sta al consiglio di amministrazione di Tots, se non sbaglio. Sì, adesso sì, da un po'. Sì. Secondo me finirà per diventare una consulente, una molto quotata di comunicazione. Probabilmente passerà da personaggio pubblico ad agenzia di comunicazione in qualche modo. Chissà, può darsi. Comunque, vabbè, fondamentalmente il concetto di Fedez è quello che abbiamo in parte accennato, e cioè dal palco del concerto del primo maggio, sì, dal palco dell'Ariston, si è scagliato contro la Lega e contro il fatto che non vogliano approvare, che stiano osteggiando in tutti i modi il DDL Zan. E questo, diciamo, è quasi soltanto un antefatto, perché poi è stato il terremoto vero è successo dopo, quando a seguito di una serie di botta e risposta, Fedez ha pubblicato una telefonata che ha tenuto con un funzionario della RAI, che in qualche modo gli aveva chiesto di anticipare il testo delle cose che avrebbe detto sul palco. E allora giustamente lì Fedez si è fatto veramente girare i cabasisi e si è domandato, scusa, ma non ho capito, ma mi state censurando, mi volete censurare, vado sul palco, non sono libero di dire quello che voglio. E lì c'è stato il tentativo maldestro di giustificarsi di questo funzionario, al che lui poi ha liquidato la cosa, se ho capito bene, dicendo: ma io ci vado gratis, quindi dico quello che voglio. E quindi insomma la situazione poi è, sì, più o meno, ovviamente si è montata ad arte, perché ovviamente lui poi ha usato il suo potere mediatico per approfittare di questa cosa e per dare un altro colpo alla Lega per la critica sempre relativa all'osteggiare il decreto legge Zan, e dall'altra parte la Lega ha cercato in qualche modo di reagire a queste accuse, a questi attacchi di Fedez, trovando poi sponda anche un po' in Franco Di Mare, che è il direttore di Rete3, piuttosto che in altri organi di vigilanza interni che stanno indagando, perché adesso bisognerà capire. E d'altra parte c'è una telefonata registrata che è assolutamente incontrovertibile, quello che si sono detti al telefono l'abbiamo ascoltato tutti. Non è molto legale pubblicarla sta cosa, però tanto si è fatto tutti i calcoli, era un rischio calcolato, sì, di Fedez, sì, cioè secondo me pure, sì, alla fine, sì, sì, sì, querelami, cioè voglio dire, che problema c'è. La cosa puerile è stato il tentativo meschino di buttarla su altri temi, e Salvini che come al solito, voglio dire, è uno che non si è mai fatto scrupoli a farsi le foto con qualunque tipo di indumento, ma soprattutto con qualunque tipo di mafioso, pure di mafioso, ma anche voi, di qualunque prodotto alimentare italiano. Se ci pensate, è il testimonial non pagato della Nutella, Salvini, no? Perché ha voluto criticare Fedez perché si è fatto riprendere, perché quando ha fatto i video, quando parlava di queste cose, aveva il cappellino della Nike e si vedeva lo SURL. Quindi dico, vabbè ragazzi, ma di che stiamo a parlare? È andato pure dalla Barbara D'Urso, che lo incalzava su ste cose, e lui come sempre parlava di altra roba. Pure Barbara D'Urso ha detto: ma perché? Cioè, ma perché sei così scema? Ma perché? Ma infatti io, cioè, lo guardava per dire, ma cioè, gli chiedeva e lui rispondeva XYZ, come fa sempre, da sviare l'attenzione. Batteva a coppe e rispondeva a denari. Ecco, allora questa cosa, se voi l'avete vista, vi chiedo di spiegarmela, perché ho letto poi sui social che qualcuno ha detto addirittura dobbiamo dare ragione a Barbara D'Urso, però non ho capito che aveva a che fare con la presenza di Salvini da lei, però non so poi il fatto qual è stato. No, io anche non ho visto, avevo pure letto sta roba, fondamentalmente lo incalzava su, perché la D'Urso mi pare che sia abbastanza a favore del DDL Zan, sta roba lo incalzava, sì, un sì, po' su sta polemica, su, poi quella no, che disse alla Meloni, anche devo dare, sì, a Meloni le rispose che è una bella risata, e vabbè. Sì, sì, perché vabbè, Barbara D'Urso c'ha tanti difetti, ma sicuramente sa quale tipo di onda cavalcare, essendo un personaggio insomma che fa della cultura nazional popolare la sua bandiera. È chiaro che poi comunque ha un pubblico che è sensibile a certi temi, e quindi lei diventa per forza di cose favorevole a quei temi, cioè non si schiererà mai contro il decreto legge Zan o contro insomma altri tipi di opportunità di parità. Secondo me non è neanche una che fondamentalmente potrebbe essere contro questa cosa, perché cioè, secondo me non gliene frega un cazzo. Cioè, nel senso, non vede una cosa negativa in questo, nel decreto legge Zan, insomma. No, ma perché poi insomma il suo personaggio, la sua cifra televisiva è quella, non è che comunque ragazzi, sì, per curiosità, scusatemi, sto vedendo adesso, già all'inizio l'ha ucciso, perché ha detto siamo in collegamento con Salvini, ha detto salve a tutti, anzi buon primo maggio, che il primo maggio era ieri, che è una festa dei lavoratori, però tutto si è parlato tranne dei lavori, e lei l'ha detto sì in realtà, e quindi si è entrato in polemica, che non c'entra niente. E la D'Urso le ha risposto: in realtà c'entra qualcosa, perché siamo tutti lavoratori, quindi ci riguarda tutti, ma guardiamo, gli fa vedere Fedez, è già lui con una faccia proprio da pesce d'esse, lei già ha capito l'andazzo della situazione, l'ha zittito in 3 secondi. Però questo mi fa riflettere, perché Barbara D'Urso comunque in precedenza con Salvini era come un po' con tutti quelli che si siedono al suo salotto, era abbastanza accomodante. Se ha deciso di prenderlo a schiaffi, perché evidentemente ha percepito anche lei che ormai sta proprio alla sì. Il problema è che se sta crollando lui, si sta costruendo un monolito di un monolito di consenso al posto suo, la Meloni, che per quanto non sia stafaina rispetto a lui, sì, però insomma la s'allunga. Diciamo che fortunatamente si rosicchiano a vicenda, quello fortunatamente è così. Sì, sì, forse per un carità. Po' 5 stelle, però ormai quello che potevano portare via dai 5 stelle credo che sono portati via. Però vedi, il problema è questo, che laddove poi viene meno il Salvini e prende il suo posto la Meloni, è preoccupante, perché poi certe tematiche diventano veramente critiche, perché lì veramente c'hai una missina con tutti i crismi e con tutte le nostalgie che del caso a in qualche modo dominare la scena politica di centrodestra, quindi veramente insomma mala tempora currunt, poi non so. Ma secondo me semplicemente cercheranno di ammazzarsi a vicenda come al solito. L'importante è sapere che cosa succederà all'elettorato di Berlusconi quando purtroppo non sarà più, perché l'altro ieri è stato dimesso dall'ospedale dopo 24 giorni di ospedalizzazione forzata e assolutamente passata in sordina, perché sì, perché ricordiamo, lui soffre di una patologia che la si riattiva in presenza, sì, esatto, all'approssimarsi di determinate date questa malattia stranamente si riattiva, come la malaria, sì, esatto. Però ragazzi, non mi stupirei se venisse fuori che in questo momento sta anche non proprio bene di salute davvero, perché se ci pensate, secondo insomma, proprio bene pare non sia, in effetti, perché comunque pare l'abbia detto anche lui stesso, e lì c'è tutto un elettorato che dovrà essere spolpato o da Salvini. Ragazzi, a parte che di quell'elettorato c'è già rimasto poco, però è abbastanza evidente che che può dargli la vittoria, perché comunque tra Fratelli d'Italia e Salvini e 5 Stelle e PD, per dire, che sono due blocchi che poi alla fine sì, ma non bestemmiare per cortesia, però purtroppo bisogna bestemmiare, stanno piuttosto appaiati poi alla fine, forse con leggermente vittorioso alla destra, sta più o meno lì, però c'è quel blocco di quello zoccolo duro. Ma guarda, secondo me parte di quel blocco, quella parte di quel blocco verrà ereditato da Renzi, se vuoi la mia appassionata opinione. Quello che rimarrà di Italia Viva quando lui andrà a lavorare per distruggerli del tutto, dici, perché Walter, secondo me su questa cosa sei stranamente ottimista, cioè non penso onestamente, penso che Renzi riuscirà a prendersi Renzi ha fatto il suo ultimo colpo di stato per prendersi le ultime due favori da probabilmente Berlusconi e che per lui, per fare consulenza e per fare un'altra cosa, perché politicamente Renzi è bruciato adesso. Sì, ma però in qualche modo ci dovrà essere una compagine politica di destra moderata, e siccome Italia Viva il tutto gli si può dire, meno di essere una compagine di... C'è sta a fare il PD, scusa. Non mi dico così che soffro, ho capito che sicuramente il PD non è decisamente un partito di sinistra, ma non è nemmeno un partito di destra moderata, non è il Partito Democratico degli Stati Uniti, ecco quello voglio dire. Ragazzi, state proponendo un problema che non esiste, dite qua. Quando se ne andrà Berlusconi? Non se ne andrà. Chi ve lo dice che tutti questi interventi, se sta cosa, la scusa ufficiale che noi crediamo è per evitare e per la processione? In realtà si sta trasformando in una specie di Robocop. Quindi. Sì, andrà di World Brain Simulation. Praticamente stanno sperimentando. Parte uomo, parte macchina, tutto piduista, ragazzi. Stanno creando un biochip con la sua coscienza dentro. Mamma mia. Come faranno con Fedez, perché Fedez è diventato un pochino il Johnny Silverhand dei Noantri. Davvero il Vendicatore, ragazzi, perché poi voglio dire, ne provavamo ad accennare all'inizio, qualcuno lo sta elevando, qualcuno seriamente, qualcuno ironicamente, a nuova bandiera della sinistra. È vero che si è andato a collocare in un vuoto che è storico ormai, no, nel centrosinistra, però è anche vero che tutto si può dire siderale, tutto si può dire che lui sia tutto si può dire meno che lui sia, diciamo così, di sinistra. Il massimo a cui lo si può avvicinare al Movimento 5 Stelle di qualche tempo fa, tra l'altro. Poi voglio dire, è un imprenditore milanese, può essere progressista per quanto vi pare, ma insomma definirlo di sinistra per mi quanto sembra conosco, affrettato. Per quanto conosco tanta gente che si professa comunista e di sinistra, che è imprenditore e imprende bene, quindi poi alla fine non mi stupirebbe più. No, di vabbè, tanto, per insomma, carità, ci sono. Qual è la parte sbagliata o la parte finta? Ma non lo so, però ci stanno, attenzione. No, ma non perché non debbano esserci, non dico quello, però diciamo che questo come caso specifico ma non dubitare delle intenzioni, però ripeto, secondo me lo si sta collocando troppo frettolosamente in un alveo che non è il suo. Detto questo, non si può negare che parte della destra che magari fa schifo anche parte della destra che fa schifo anche la destra, cioè non necessariamente uno che è di destra deve essere salviniano, insomma, vedete, o per forza essere contro, essere omofobo, cioè no, ma infatti per quello ti dico c'è un vuoto grosso da colmare, che è la totale assenza di una destra moderata in Italia, che voglio dire poteva essere ai tempi d'oro Forza Italia, ma ormai non più di tanto. Comunque Italia Viva, bello, c'è il nome che ti dà proprio tanta fiducia, è ottimismo quello, ragazzi, c'è veramente porca ottimismo. Porca sì, ti ha portato benissimo, sì. Proprio bene. Vabbè, però se possono sempre fondersi in un unico conglomerato e chiamarlo Forza Italia detto, Viva, Viva Forza fratelli, Italia. Fratelli di Forza Italia Viva. Viva Forza Italia. Ancora meglio, la Lega dei Fratelli di Forza Italia Viva. Stiamo per arrivare al notissimo Partito Democratico per l'Inquisizione Moderata, di cui parlavano Daniele Caluri e Pagani, gli autori di Don Zauker. Anzi, scusate, il Partito Nazista Democratico per l'Inquisizione Moderata, ed è il nome completo. Scusate. Nel frattempo in chat, giustamente Simone, anche lui ribadisce, non sta scritto a nessuna parte che un imprenditore o un industriale non possa essere di sinistra. No, ma infatti non volevo intendere quello. Mi riferivo un po' più al tipo di imprenditorialità e al tipo di centro di gravità di Fedez e di Chiara Ferragni, insomma. Non voglio essere, come dire, banale o scontato, ma sono quelli che quando c'è stato da fare una raccolta di fondi per il Covid, i fondi li hanno diretti al San Raffaele di Milano, non proprio al Fate Bene Fratelli. Ecco, quello a me fa riflettere, se la devo dire tutta. Però vabbè, ripeto, quello che ha fatto Fedez è stato dire cose assolutamente condivisibili da un punto di vista strettamente civico, non andiamogli per forza umano. Esatto, non dobbiamo umano. Dargli una connotazione politica o una collocazione politica. Ha detto delle cose sacrosante con le quali dovrebbe essere d'accordo ogni persona civile del paese e non solo del paese, ecco, tutto lì, quindi. Vabbè, però che ti devo dire, qua se non si politicizza tutto, evidentemente non siamo contenti. Che dobbiamo fare? Questo è il mondo in cui siamo costretti a vivere, mi viene da dire. E vabbè, ragazzi. Comunque mancano 13 minuti al coprifuoco. Oh, mannaggia. Ognuno deve rientrare. Stai tornando verso casa, Francesco? Ma l'Italia è la mia casa. Dove c'è un assembramento lì, c'è Francesco. Allora tu fai una cosa, buttati in mezzo e cerca però di prendere il controllo, cioè non essere passivo, cerca di diventare attivo e di convogliare, diciamo, il movimento verso casa. Cioè, va bene, tutti a casa sua? Ma così grande casa prima... nuova? L'importante è arrivare sotto. 127 caso, metri quadri, cioè, non esageriamo. Quanti? È grande, mazza, 127 metri quadri, è molto grande. Dai, cioè, la mia di 90 è enorme. Un ravino ce lo può fare, insomma. Sì, secondo me se ci organizziamo, sì, dai. Un mini rave. O una reunion de runtime, anche volendo, ci scappa bene. Ah, pensavo dei Beatles, mi stavo già preoccupando. I Beatles. Beatles è un po' difficile perché dobbiamo risuscitare tre persone. Bisogna portare tre. Ah, è vero, cazzo, il quinto Beatle, c'è ragione. Non abbiamo avuto la il quinto, è il quarto che è stato sostituito. C'è sempre comunque il quinto Beatle, che è il primo batterista, se non sbaglio, che fu sostituito. Sì. Potrebbe portare anche lui. Per essere un batterista quello, di assoluto quello livello. Che se ne, quello che se n'è andato ha detto: voi mi fate schifo, non farete mai che carriera. Insomma, una cosa del genere. Vabbè, insomma, torno a ripetere che di Ringo Starr, Paul e George dissero: non è neanche il miglior batterista dei Beatles. Quindi, insomma, pensateci un attimo. C'era tanta stima, c'era. Quanto cinismo. No vabbè ragazzi, che dirvi, io però cioè sta un'intervista in cui tra l'altro si pisciano, erano evidentemente fumati come due caimani e stavano rispondendo a delle domande. Pensate che Ringo sia il miglior batterista del mondo, si vede che scoppia la ridere, fa il best, miglior batterista beat best di... il batterista che se ne andò. Vabbè, comunque mi pare abbiamo già detto che oltre che Paul McCartney, l'altra famosa sostituzione nel mondo dello spettacolo per sopravvenuta morte poi tenuta nascosta dai poteri forti, l'abbiamo avuta in Italia con Pippo Franco, quindi mamma mia, quella è un'altra di quelle storie che tu dici ma perché mi manca. No vabbè, poi vi giro il link, in pratica girava sta storia che fosse morto negli primi anni 80 perché stava raccogliendo delle mandorle, un contadino lo colpì, lui cadde male e poi la Rai intervenne, lo sostituì con tra l'altro un contrabbandiere di sigarette, disse. Quindi no, lo sostituirono con un cyborg, con un robot, questo personaggio così importante da doverlo sostituire. Inizio anni 80 cioè, ci puntava parecchio la Rai su Pippo Franco, Ciò Marziano, tutte quelle cose. Vabbè, comunque dopo Robocop, dopo Robosilvio, Pippo Cop. Bellissimo. Pippo Cop però sarebbe più titolo da film d'azione. Sbirro, Robo Pippo. Ma già che abbiamo accennato al tema cinematografico, io se ci fosse stato Simone Pizzi avrei voluto un attimo parlare del film che ha vinto l'Oscar e di cui ha accennato anche lui stamattina a Buongiorno un cazzo, e scusate le parolacce, e che è Nomadland. Però facciamo una cosa, non so se poi a voi andrà di parlarne, se l'avete visto o meno, però ci prendiamo un attimo di pausa, mettiamo un attimo uno spot e quello della nostra Vargio Macchia e poi rientriamo e ne parliamo un momento. Un piccolo seme può dare molto frutto se mani amorevoli se ne prendono cura, ma alle volte questo può non bastare. Ogni giorno migliaia di alberi vengono abbattuti, lasciando il nostro pianeta sempre più povero di una risorsa importante per la sua sopravvivenza. Ed è per questo che noi di Runtime Radio abbiamo deciso di sposare la nobile causa di Tridom, una realtà tutta italiana che da anni si batte per riforestare il pianeta con un sistema che fa bene a tutti. Vai sul nostro sito www.runtimeradio.it e accedi da lì alla Vargio Macchia, la nostra piccola foresta su Tridom, in cui potrai comprare un albero da far piantare nel luogo che desideri. Le cooperative locali pianteranno il tuo seme nel rispetto dell'ecosistema, della fauna e aiutando così anche l'economia del luogo. Basta un piccolo gesto per fare la differenza. Fallo assieme a noi. Cerca la Vargio Macchia sul sito www.runtimeradio.it. Grazie. E grazie, io direi, un po' da tutti noi se parteciperete all'iniziativa della Vargio Macchia. Scegliete il tipo di alberello che volete, ce ne sono per tutti i gusti, anche per tutte le tasche. Ci guardavo giusto l'altro giorno ed è importante. A noi interessano solo i cipressi, però noi. Li pizzuti. Altri pizzuti. E ragazzi, insomma, Nomadland l'avete visto? Intanto vi faccio questa domanda semplice. No, quindi, ancora no. Perfetto, e allora ancora ne parliamo lunedì prossimo, perché insomma non avrebbe senso. Per spiegarmi, lo vediamo. Sì, se lo vedete, io non penso di vederlo perché mi ha fatto noia solo il trailer. Poi magari il film è bellissimo, però il trailer non mi può fare il trailer che mi annoia. Allora, Marco, il film è bello se ti piace un tipo di film che comunque che ti annoia, come il trailer, nel senso che non è certo un film movimentato, non è certo è un film. No, basta, io voglio vedere le cose che scoppiano. Ma ho deciso, ho visto già troppi film che vogliono essere belli, voglio vedere le cose che scoppiano. Tu allora guardati senza di ma almeno capisco. Ho capito una cosa. Tu vuoi praticamente una sorta di Michael Bayflix. Esatto. Non così, diciamo, non così di qualità, anche meno qualità. Anche meno. Anche meno, dai. perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo. Viva la merda. Comunque, ragazzi, io invece ho visto Senza Rimorso, quello di Sollima. O Sollima. Ce l'hai rimorso? Sollima. No, in realtà no, non è non ce l'hai neanche dopo. Secondo me il titolo originale di quel film era Senza Rimborso ed era un messaggio subliminale. Ma in realtà non è bruttissimo come film d'azione. Il problema è che c'è il finale a sorpresa dopo i titoli di coda. Aspetta solo un secondo, salutiamo Girasole che ci ha appena raggiunto in corner. Ciao Girasole. Ciao Girasole. Vai. In pratica, se vedete poi spoiler, aspetta, scusa Puccio, senza spoiler. No, sto spoilerando. No, ti sto facendo una domanda. Cioè, il post finale che sta dopo i titoli di credo, di coda, cioè non è un cliffhanger, no? No, in realtà ti fa capire che probabilmente hanno voluto inserire questo film in una specie di Tom Clancyverse in stile Marvel. Probabilmente lo ricongiungeranno con quello che accade in Jack Ryan, anche perché effettivamente nei romanzi di Clancy il protagonista di Senza Rimorso, il John Clark, è un po' il contraltare di Jack Ryan. È un film d'azione recitato. Ma questo vuol dire, scusa, che probabilmente ci sarà anche la versione cinematografica, cioè un nuovo film cinematografico col personaggio di Jack Ryan, o sì, si ricollega alla serie? No, si ricollega alla serie. Secondo me si ricollega alla serie di Amazon, cioè è abbastanza evidente che il collegamento sia quello lì. Poi, non lo so, io quei libri un po' li ho letti, generalmente perché a me piacciono i gialli più che i film di spionaggio, e quelli alla fine sono più gialli che film di spionaggio. Non mi aspettavo che prima o poi tirassero fuori John Clark in questa maniera, soprattutto dandolo in pasto al pubblico in un lungometraggio, non inserendolo nella serie TV. Devo dire, se entrate nell'ottica del prodotto che è, non è male. Ma scusa, ma sei sicuro che nella prima stagione di Jack Ryan non ci fosse John Clark? Perché non questo, perché in realtà John Clark non è necessariamente il nome di una persona nei romanzi, viene spiegato che è un'identità. Ah, quindi, è un John Doe. Cioè è un nome che viene dato. È un James Bond, è tipo 007. Diciamo che, esatto, esattamente così. Poi non ho capito se lo vogliono ricollegare, se i John Clark che abbiamo visto verranno citati in qualche altra maniera, però mi pare evidente che questo dovrebbe diventare quello principale, anche perché non ti pidi Michael B. Jordan per fargli fare il personaggio secondario nei film. No, tra l'altro a me Sollima come regista piace molto, anche se non tutte le sue creazioni sono riuscite completamente col buco. A me è piaciuto il seguito di Sicario, che era Soldato, che non era per niente, assolutamente male. Ma anche Sicario stesso. Che però non è di Sollima. Beh, no, però non aveva fatto la parte di post-produzione Sollima. Ah, cioè non figurava. Non lo so, allora, non mi lo ricordavo. So. No, mi ricordavo il suo nome nei titoli di coda. Non lo so, non è nemmeno sì o no, proprio non lo so. Se mi ricordo male io. Poi, ad esempio, mi è piaciuto molto Romanzo Criminale, la serie, che trovo 100 volte superiore al film di Placido, e così via. E invece, per esempio, non mi è piaciuto. Vabbè, Placido c'aveva 2 ore per condensare 900 pagine, cioè era pure. Sì, no, però a livello generale di atmosfera, non lo so, è chiaro che poi in una serie c'è avuto più tempo. E invece l'ultima serie che lui ha prodotto per Sky, che ha realizzato per Sky, adesso mi sfugge il titolo, quella che parla del narcotraffico tra il Messico 000. E il Gioiasauro 000. Quella pensata dal film di Saviano. Dal libro di Saviano, sì. Mi è piaciuto in parte, però ho faticato un po' a farmi piacere il collante tra le varie storie raccontate, cioè c'era comunque, viste in parallelo funzionavano meglio che messe insieme tra loro, ecco, non so perché, però comunque sì, ripeto, è un ottimo regista d'azione e di intrigo, quindi mi auguro che sia, non l'ho ancora visto però questo Senza Rimorso, quindi alla fine senza spoilerare, com'è come film, cioè complessivamente? No, complessivamente è un film d'azione a budget medio-alto, girato bene decisamente, con personaggi un po' sopra le righe, con Michael Jordan che è sostanzialmente Superman, però ma cioè, alla fine a me è piaciuto. Poi noi diciamo l'abbiamo visto prevalentemente perché mia moglie ha questa crush mostruosa per Michael B. Jordan. Siamo visti praticamente qualsiasi ruolo abbia interpretato da quando ho cominciato a recitare a oggi. Puccio, però e Pantera Nera anche più di una volta. Ti devo dire una cosa, Puccio. No, vabbè, ma c'ha assolutamente ragione. Non è quello. Non è quello. Quella cosa che ti devo dire è tutt'altra. C'è 40 anni, non puoi dire una crush. Ma c'ho anche una figlia di 5 anni, quindi che userà un altro linguaggio perché sarà già, diciamo, obsoleto quando lei comincerà ad usare questo tipo di concetti, secondo me. Sì, oddio, sarà, può essere. Sarà un'altra, fra un decennio no, per un ci sarà un altro modo di dirlo. No, ma per deformazione professionale dice crush lui. Giusto, è vero, è un crush, no, non è un crush, dire, okay. quella precedente di mia moglie era Tom Hiddleston, che non abbiamo visto Povia, tutti i film. Per me è Povia, io ditemi quello che vi pare, ma per me Tom Hiddleston è Povia. Vabbè, mo capisco, guarda, umanamente quello che vuoi. Ma tu che ci di Povia, ma com'era quella cosa dell'inno dell'Inter, della Juve dell'Inter? Sì, che, no, dell'inno dell'Inter che è stato proposto a Povia, cioè pare che i due candidati a scriverlo fossero Max Pezzali e Povia. Perché giustamente l'interista già parecchio per soffrire hanno voluto dargli il colpo di grazia. Ragazzi, ma Povia come fanno? Ogni tanto lo tirano fuori come... Perché? Cioè, Povia è un disadattato e basta. Ma è ricicciato pure nella polemica di Fedez. Perché certo, quelli perché della Liga lo vogliono utilizzare come contraltare di Fedez. Però, cioè, per favore. Vabbè, provateci. Siamo veramente a livello di scontro tra tita. Che cazzo è Godzilla contro King Kong? Piace. No, a me mi sembra Godzilla contro la merda, cioè non... esatto, di Kong. Cagherà sto rinoceronte, sto gorilla da qualche parte. Che bello. No, vabbè. No, ma cioè la tristezza. Veramente siamo a livello di scontro tra tre. A questo punto scontri diretti, di non so se avete mai visto il gioco di South Park. Fractured Battle. Ma a questo punto, cioè, scusate, a questo punto, cioè, rispolveriamo grandi personaggi come Grignani, chiediamo che cazzo ne pensano di tutta sta roba. Mamma mia, ragazzi, sì. Ancora un Priacanno forse. Che capodanno meraviglioso quello a Bari con Grignani, poi non avete idea. Nel frattempo devo dire che in chat c'è molta animazione, solo che stanno a parlare di cavoli loro, per cavoli loro di utopia comunista, di cose che diciamo praticamente noi abbiamo cambiato argomento, loro sono rimasti sul concetto se un imprenditore può o non può essere di sinistra e digressioni varie. Poi a un certo punto, quando ho citato Povia, c'è stato un attimo di un tremito nella forza di silenzio, perché Simone, in particolare Simone Pizzi in chat scrive Povia, e allora così, vabbè. No, Simone, non ti preoccupare, non scrive l'inno della Lazio, vai tranquillo. Sono tornati già a riparlare di politica e di socialdemocrazia, non ti preoccupare. Dice giustamente Virgilio, la tradizione della chat di OGM è quello di farsi i cavoli propri. Sì, sì, ma siamo lieti che queste vecchie abitudini si siano riproposte anche su Telegram, perché da quando abbiamo cambiato media per comunicare, magari colpa nostra, che perlomeno almeno mia, che devo in questo caso guardare la regia e tutto il resto, mi cade poco l'occhio sulla schermata della chat, però insomma in futuro cercheremo di migliorare anche da questo punto di vista e rendervi di nuovo più partecipi. E vabbè, ragazzi, anche basta. Ma anche basta, sì, ci siete ancora, sì. Ma insomma, altre cose viste da vedere. Hanno messo Promare su Amazon Prime. Che se, cioè, se non l'avete mai visto, no, è un anime. È una serie anime, sì. Sì, no, è un lungometraggio. È uno Susa, sì, giusto. Sì, sì, è un. Non dura neanche tantissimo. In realtà non è particolarmente complesso dal punto di vista della trama, però se avete un'oretta che va avanza, dategli un occhio, perché esteticamente è bellissimo da vedere. C'ha dei colori e delle animazioni assolutamente fuori di testa, un misto tra wireframe, pastelli sparati. Guardatelo perché praticamente come Mitchell contro le macchine, che è uscito su Netflix in questi giorni, anche se c'è una, anche una forte componente di CGI 3D tradizionale, ormai si può dire, sì. Però mischiato appunto a queste tecniche che avevi appena citato per promare. E tra l'altro è un film che consiglio a tutti quelli che hanno una famiglia, magari figli adolescenti eccetera. È un cartone animato, una commedia però molto carina, che è anche leggermente banale nella trama di fondo, che comunque è il classico messaggio dello scontro generazionale tra genitori e figli, però alla fine lo fa in maniera molto leggera, non vuole essere nemmeno particolarmente pedante o troppo profondo nel messaggio che vuole lanciare. L'ho visto ieri sera per riprendermi un po' dalla sera prima, che avevo visto appunto Nomadland, che come dice Marco sicuramente è un film per certi versi noioso, più che altro è un film che fa riflettere, però ieri sera cercando uno svago ho cambiato completamente genere, ho visto quello. Tu figurati che invece a casa mia siamo tipo riflesso. Ho riflesso, sì, infatti col televisore nuovo 4K mi girano tutti gli occhietti, era tutto pieno di ghirigori, riflessi, colori, bello. Quindi sicuro compreremo che tutti K non camper, erano quel cappuccio e un K a parte, no? Sì, esatto, un cappuccino 4K in fiamme. Ma quindi praticamente ancora non ho finito di vederlo, avevamo iniziato un po' con la bambina, però sì, in effetti non mi pare che Mitchell contro le macchine siano un film della Pixar sui sentimenti, di quelli molto approfonditi. No, scusa, le spiegazioni psichiatriche. Non ho capito citavi un film della Pixar, ho perso un pezzo, scusa, leggevo la. No, siccome stavi dicendo che tu è un Mitchell contro le macchine, è un film sulla famiglia, però tutto sommato leggero, dicevi, non sì, non è a livelli non con ok. No, mi sono venuti in mente gli ultimi film della Pixar dove i sentimenti hanno i sentimenti, eccetera, eccetera, come recita il meme che va tanto di moda. Noi invece qua a casa siamo tipo alla sesta, settima visione di Soul su Disney Plus, perché a mia figlia piace tantissimo. Io non ho capito se ha capito, non ha fatto domande, però sì, le piace moltissimo. Vabbè, magari ora, se inizia a suonare i personaggi, se diventa una nota, non so, pianista piuttosto che altro strumentista jazz, sarà stato. No, quello. Lei dice che vuole fare la parrucchiera. Mamma se, cioè, mia, se le fai questa domanda, ma vuole che vuoi fare la parrucchiera? Chissà che c'è di male. No, perché è strano che c'è stata questa scena con mio padre che è andata a fare, ma nonno voleva sapere, ma ti piace la musica? Vuoi che ti porta a suonare il violino, il piano? No, io voglio fare la parrucchiera. Cioè, mio padre con la morte negli occhi. Lui ha preso da te che di arte non capisci un cazzo. Sì, può essere. Ma poi da qui a quello che succederà, chissà. Io volevo provare tipo la vita secondo Jim. No, ma il piano piace tanto a Babbo Natale, impara a suonare. No, mi stavo domandando, chissà quale dei due degli eredi della famiglia console poi sarà l'informatico di prossima generazione, se ci sarà. Spero non nessuno è detto, non è nessuno detto, dei però. Due ovviamente. Spero nessuno dei due. Ma cioè, come mio padre non ha avuto figli sportivi, né io né mia sorella, non ha avuto figli appassionati di calcio, probabilmente io ho due figli che per la legge del contrappasso, dici. È per quello anche che se tua figlia dire... vuole fare la parrucchiera. No, ma sai che cos'è? Mia figlia gioca tantissimo a Splatoon da un po' di tempo a questa parte, online. Perché tanto non c'è una chat vocale, non c'è niente, ma lì entra, si fa le partite, colorano, perché Splatoon si basa non sul sparare all'avversario ma nel colorare la mappa in maniera più ampia rispetto al team avversario, quindi è molto collaborativo più che competitivo. L'ho vista che si lancia, ero lì che non le dico neanche niente perché ho paura di influenzarla, però diciamo, mi ha fatto un certo effetto vedere che a 5 anni considera normale giocare online in quella maniera. Vabbè, perché alla fine sono nati in un momento in cui l'essere online è una condizione quasi naturale, no? Quindi... Long life, ora si dice, long life, mamma mia. Ogni tanto il pensiero mi va, non so se l'avete mai vista, una serie anime di ormai 20 anni fa che si chiama Serial Experiment Lane. Ho iniziato, no. Ma... No. sta noia un po', onestamente. Sì, è un po' particolare come serie, però alla fine presagiva un mondo che non è molto, molto lontano da quello in cui stiamo arrivando adesso, insomma, vabbè. No, pensavo Sword Art Online, cioè quello magari no. No, no, no. Tra l'altro, Serial Experiment Lane, che è stato trasmesso anche durante le prime i primi esperimenti di ritrasmettere anime in, in TV, che fece MTV, l'anime Night, l'anime Day, eccetera. E l'anime dei meglio anche. L'anime dei meglio. E poi è stato completamente sparito dai radar. Io ho i DVD dell'epoca, però non... Non è stato più riproposto. Peccato, tra l'altro, con una bella colonna sonora di un gruppo nord europeo che si chiamano i Boa. Cercai per millenni il CD originale della colonna sonora, in cui c'era un brano che era la sigla di Lane, ma poi c'era un intero disco fatto da questo gruppo che non aveva niente a che fare con la serie, però niente, mi incaponì, ma riuscii soltanto a trovarlo un lag, perché non, in nessun negozio lag, sì. In nessun negozio d'Italia era mai uscito, ma neanche non... quelli che facevano importazione parallela dal Giappone. No, ma il, no, ma le, no, ma no, il disco era di un gruppo nord europeo, non mi ricordo se svedesi, norvegesi, non ricordo bene, si chiamano Boa. Di Sven. 100 svedesi. E la e il disco è uscito per un'etichetta europea che si chiama Edel Record. In Italia però non si è trovato, all'epoca non c'era ancora Amazon o che. Comunque vabbè, no, ma mi hai ricordato un prezzo abbastanza salato che ho pagato comprando poi spedito per posta con me, che insomma, parliamo di epoca, diciamo, precolieri in un certo senso, quando comprai il CD con la colonna sonora di Akira. Sì. Che tra l'altro conservo ancora, e quello lo comprai da un negozio che faceva importazione parallela dal Giappone, perché ovviamente quella roba in Italia, ma col cazzo che arrivava, tanto, insomma, mi ricordo di averlo sentito con mia madre che faceva: ma che è sta roba inquietante che stai ascoltando? Devi vedere il film. Scusa, salutiamo anche sì. DJ Joker che ci ha raggiunto in chat. Buonasera DJ, e tra l'altro per raccontarlo abbiamo anche un'Olivia Alticcia, mi pare di capire, qui dalla chat. Attenzione, perché qui c'è dell'alcolemia nell'aria. C'è un certo tasso di alcol. Sì, a proposito, scusate, visto che abbiamo citato Akira, la Panini lo sta ripubblicando, sono usciti i primi due volumi. Se vi interessa, muovetevi, perché Akira, se capisce perché, in Italia c'ha sempre avuto una storia, diciamo, abbastanza travagliata. Quindi prima che sparisca di nuovo, calcolando che il manga è molto più approfondito delle due orette di anime, ed è molto più ricco di tanti elementi, di considerazioni sul potere in senso assoluto, non solo quello telecinetico dei protagonisti, fatevi un favore, compratevi il primo magari, se vedete che vi prende cercate di finirvi la serie, perché se un domani dovesse venirvi lo scrupolo è abbastanza improbabile che lo ristamperanno. Vabbè, una terza volta. Panini Comics ne ha stampate diverse edizioni, tra l'altro io di... Beh, no, due soltanto, sì, complete io... due di Akira, infatti ho la, perché al di là dell'edizione Granata Press con tutte le sue infelici vicissitudini dell'epoca, che io ancora ho la Akira Collection in volumetti nello stesso formato che era uscito in Giappone, e poi credo che abbiano fatto delle ristampe. No, allora della Akira Collection, quella in volume grande, diciamo, quello oversized, credo che l'abbiano tirata una volta sola quelli della Panini, e difatti il fatto che abbiano deciso ora di ristamparlo viene anche dal fatto che ci sono state richieste abbastanza pressanti per diversi anni, diciamo, e finalmente santo Marco Marcello Lupoi ha consentito a rieditare l'opera, che tra l'altro è molto fedele alla versione giapponese, tant'è vero che ci sono le quarte di copertina che a volte sono in lingue diverse dall'italiano, perché erano così in giapponese, cioè tipo ce n'era una in spagnolo, una in inglese, e c'è gente che ha pensato che fosse un errore di stampa della Panini e stava facendo un casino sui forum, però no, è proprio così l'edizione giapponese. Sì, hanno esatto. Voluto essere fedeli. Intanto in chat sto leggendo, sempre più intrigato, cioè praticamente la nostra girasole che ci dice di essersi, crede di essersi bevuta da sola una bottiglia di pecorino Doc G, quindi anche un bianco abbastanza altino come gradazione, quindi complimenti. Sarebbe stato interessante averla in diretta allora, però stimola la diuresi, cioè, Sì, ma anche il buon umore, perché insomma, al fin dei conti, è tanto che non mi bevo un bel calice di vino, tipo con un aperitivo, piuttosto che con un tagliere. L'ultima volta penso che risalgono all'estate scorsa. Vabbè, magari dai, tra qualche mese ricominceremo a toglierci questi sfizi, che vi devo dire, ragazzi, un po' di nostalgia per il tempo che fu e per il tempo che speriamo verrà. Momento triste. Vabbè, io direi che pure questa sera però il nostro dovere l'abbiamo espletato. Che dite, ragazzi, ci vogliamo cominciare a dare una regolata? E allora non facciamo altro. Si è fatta una certa, ragazzi. E allora, ragazzi, permettetemi di cominciare ad introdurre la fine di questa serata, e lo faccio salutando tutti quelli che questa sera ci hanno fatto compagnia. Oggi voglio iniziare dagli amici in chat, se me lo permettete, perché erano particolarmente attivi di ubriachelli. Quindi salutiamo Simone Pizzi e Michela De Paola, che ci hanno ascoltato, piuttosto che partecipato attivamente, ma Simone c'è stato anche al microfono per un attimo. Salutiamo Girasole, salutiamo DJ Joker, salutiamo Al 9000, salutiamo Pier G, salutiamo Peppe Rizzard, insomma il pubblico delle grandi occasioni questa sera, permettetemi di dire. E salutiamo ovviamente quelli che hanno reso possibile questo programma questa sera. Con me c'erano Marco Gualdi. Io pensavo il signor Peroni, invece no, grazie. Il signor Peroni lo ringrazi tu, cosa. Io purtroppo niente. Aiuta sempre. Lo so. Buonanotte, poi, ragazzi, buonanotte. E poi salutiamo, adesso non so più bene in quale pezzo della 1 da Milano a Reggio Emilia si trova, il nostro Francesco Lobby Frontali. Buonasera a tutti. Alla prossima, chissà dove sarò la prossima volta, chissà questo in cosa si trasformerà e dove sarò la prossima volta. Spero vicino a casa, perché c'ho delle robe in frigorifero da consumare. Ma a questo punto scendi dalle parti nostre, no? Se riesci, se il rave ti porta, scendi verso il centro. Se posso, sì. Dite che devo fare non ci abbiamo, che ne so, qualche cosa da festeggiare qui a Roma, così almeno magari il primo maggio è passato, il non scudetto, no, il 2 giugno, lo scudetto morale. 2 giugno, beh, che giorno è il 2 giugno? Fammi vedere, il 2 giugno. Perché il mercoledì, il riflesso della luce non vedo, mercoledì. Ci si può fare un pensierino. Hai ancora 20, no, quant'è? 30 giorni, cioè 30 giorni di tempo ce la puoi fare. Piano piano. Muovete, se una settimana sono arrivato qua su, dai, mi faccio la francigena, vai. Bravo. E nel frattempo salutiamo anche dall'assolata ma umida Puglia, Carmine Puccio Console. Ciao a tutti, vado a accendere il deumidificatore notturno. Momenti di alta radiofonia. Va bene, ragazzi. Scusate, mi stavo soffocando con la saliva. Ma non so cosa capita. Io per ultimo, Walter Sbano, vi ringrazio, vi do appuntamento alle prossime dirette di Runtime. Vi ricordo, tra l'altro, che sta per partire un nuovissimo format di cui ha accennato questa mattina Simone in Buongiorno un cazzo, che è il nuovo format realizzato direttamente da... Scusate, mi sono incartato. Il nuovo format realizzato da Roberto Tomaiolo, che parlerà di storia contemporanea, ma con una chiave di lettura interessante, perché andrà a pescare fatti e notizie da fonti che non sempre vengono citate, perlomeno dalle nostre parti, quindi cercando di dare delle chiavi di lettura interessanti a fatti della storia del XX secolo, sostanzialmente. Il suo programma non ha avuto il coraggio. Sì. Dici. Allora, ricordiamo il nome del programma: Delenda Cartago. Sta per arrivare, avete notizie più cicciose sull'inizio delle trasmissioni nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, direttamente dagli interessati e dai creatori del formato. A questo punto, ragazzi, ancora una volta vi saluto, do a tutti quanti la buonanotte e niente, ci ascoltiamo alle prossime puntate di OGM.